Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Immaginate di voler andare al lavoro in bicicletta ma di non volerci arrivare in condizioni tali da dovervi fare una doccia. Ecco, questo è uno di quei casi tipici in cui una buona soluzione può essere la bicicletta a pedalata assistita. Parliamo di una di quelle biciclette che sono dotate di una batteria e di un motore elettrico che si aggiunge ai vostri muscoli, eliminando in pratica la fatica della pedalata, soprattutto nei punti più impegnativi di un percorso come le salite. Ebbene, stasera vi parliamo di un progetto, si chiama Progetto Girasole e il suo obiettivo è la diffusione di un kit universale, in grado quindi di convertire qualunque bicicletta in una bicicletta a pedalata assistita. E c'è di più, ce ne parla Federico Pedrocchi, sentiamo. Sono qui davanti a un oggetto, uno delle tante migliaia di oggetti che sono promossi e che si vedono qui al Salone del Mobile di Milano. È una vecchia bicicletta, una bicicletta che potrebbe essere tranquillamente degli anni 30. E sono qui con Peter Bassi. Peter Bassi, che appartiene a questo triangolo, l'arte del vivere con lettezza, Fratto Zero, Francesco Argenti Design, sono tre realtà, vi siete consociati, fate una serie di cose insieme, del vivere con lentezza ne parleremo senz'altro un'altra volta qui a Smart City, e vi siete messi insieme per questo progetto Girasole. Quindi torniamo alla bicicletta, una bicicletta vecchia, c'ha addirittura i freni a bacche, però qua davanti altro che vecchio. Qua davanti c'è un oggetto, diciamo, abbastanza tecnologico, che è un kit che serve per convertire una normale bicicletta, quindi sia vecchia che nuova, in una bicicletta pedalata assistita. È un kit universale, quindi ha la possibilità di essere montato in ogni, diciamo, su ogni bicicletta, su ogni modello di bicicletta, e ha la particolarità di essere montato davanti e non dietro, dove c'è una meccanica molto più semplice. Quindi lo scopo, diciamo, di tutto il kit è che venga montato nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, non di più, senza avere conoscenze meccaniche particolari. Per chi si ricorda, ma è ritornato anche di moda, c'è il Velosolex, perché questo motorino funziona a tamburo, cioè c'è un tamburo che preme sulla bicicletta e quindi dà la spinta. Esatto, diciamo che potrebbe essere tipo una specie di Velosolex elettrico. Utilizza tutta la tecnologia che viene utilizzata nelle normali biciclette a pedalata assistita, quindi batterie al litio particolari con delle ricariche specifiche, e in più ha una cosa un po' diversa rispetto a normalmente agli oggetti di questo tipo, che è un progetto open source. Quindi all'interno tutto ciò che fa funzionare, diciamo, la mente pensante di tutto questo è Arduino, che è un progetto italiano che sicuramente chi se ne intende di open source conosce. Comunque è una scheda elettronica che si può programmare a seconda degli scopi che tu vuoi avere, quindi si applica addirittura a dai mobili, riesce a imporre dei movimenti. Esatto. In una seggiolina qui guida questo motore. Qui, open source vuol dire che chiunque può introdurre dei miglioramenti. Per sì, esempio. Diciamo che il progetto è pubblico. Sarà pubblico perché non abbiamo ancora un sito ufficiale, ma sarà pubblico, in cui, diciamo, il know-how che abbiamo sviluppato in questo anno di progettazione e di costruzione del prototipo verrà condiviso, e la speranza è quella che altri possano condividere la loro professionalità, le loro, diciamo, idee sul progetto. Quindi il progetto è un prototipo, si può digitare in qualunque motore di ricerca vivere con lentezza e vi trovate dentro un sito, e qui nel sito si parla della bicicletta. In conclusione, però, perché ne parliamo in particolare a Smart City? Per il semplice fatto che qua l'intelligenza sta nel fatto che ho un mezzo anche vecchio, magari appunto la bicicletta alla quale sono molto affezionato, gli metto sul motorino, però se poi c'è qualche problema al motorino lo faccio aggiustare, non so, lo tolgo o sempre la mia bicicletta, e questa è la propria. Certo, uno non si butta via la propria bicicletta alla quale siamo tutti affezionati, certo. E poi condividendo le conoscenze, diciamo, sarebbe molto più semplice anche imparare ad aggiustarsela, il kit e anche la bicicletta. Quindi, scusa, anche volevo chiedere questo, ma uno ha due biciclette, non ci mette molto a prendere il kit e metterlo anche su un altro? Certo, basta semplicemente comprare due staffe, quattro, o meglio due coppie di staffe, e montarla su biciclette diverse. A questo punto il kit si può asportare, esatto, da una bicicletta all'altra. Quindi l'idea anche un po' del kit sharing, magari all'interno della famiglia, se ne compra uno per tutti. Per tutti. Va bene, ancora prototipo, ma fra un po' sarà accessibile. Esatto. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. C'è ancora il tempo per una notizia, allora, per restare in tema di mezzi ibridi, perché la bici a pedalata assistita è a tutti gli effetti un mezzo ibrido elettromuscolare, potremmo dire così. Ebbene, c'è da segnalare la messa in funzione in Germania del primo treno ibrido. Coprirà la tratta fra Aschaffenburg e Miltenberg, spero di averli detti correttamente, a sud-est di Francoforte sul Meno, una linea di 37 km e 14 fermate. Di che cosa parliamo? Parliamo di dotare i treni di un sistema per accumulare energia elettrica, quindi batterie come quelle della bicicletta che si ricaricano durante le frenate e che poi aiutano il treno nelle accelerazioni successive. Nel caso specifico di cui stiamo parlando, si è preso un treno dotato di due motori diesel da 275 kW che sono poi stati equipaggiati con due sistemi a propulsione ibrida da 315 kW con un tot di batterie al litio a bordo. Si stima che tutto questo permetterà una riduzione nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2 intorno al 25%. E con questo è davvero tutto, appuntamento a domani.